Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene. Guardo il sole che sfuga dentro a sta cella, se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare. Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del... Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E allora buongiorno a tutti e tutte. Sono le 15:02 primi, è Radio Onda Rossa e questa è la trasmissione contro il carcere. Bene, anche intanto buona libertà a tutti e tutte. L'augurio è che ciascuno di voi e tutti insieme la possiate ritrovare al più presto, la libertà, anche se poi non è una piena libertà quella che si raggiunge una volta uscite da quelle celle, da quelle mura, però comunque è un posto dove si può meglio articolare la nostra battaglia per la libertà, appunto, che c'è in carcere ma c'è anche fuori. Bene, anche oggi proveremo a fare come l'altra volta, la trasmissione divisa in due parti, però vedremo di accelerare la parte riguardante la cronaca di quello che succede nell'universo carcerario italiano, per dedicare la seconda parte un po' più tempo, quindi al discorso sull'abolizionismo, il progetto dell'abolizionismo carcerario. Allora, dobbiamo iniziare con una tragica notizia, come purtroppo è sempre continuo, non passa settimana che non dobbiamo segnalare una morte in carcere, una morte di carcere. Il carcere uccide, muore, tanti sono i modi con cui toglie la vita alle persone, oltre alla libertà, e quindi stavolta anche a Treviso, il carcere di Santa Bona. Un detenuto di 44 anni, quindi abbastanza giovane, è stato colto da un malore. La notizia dice così, è su Treviso Today, quei giornaletti locali, perché è appena uscita, che del 4 maggio, dice che un malore fatale nel carcere di Santa Bona ha colpito un detenuto di 44 anni. Ora, malore fatale, francamente non sappiamo che cos'è, ma probabilmente si saprà qualcosa nei prossimi giorni, anche se, come lo diciamo più volte, le notizie delle morti in carcere, che nel momento in cui avviene la persona morta, il decesso, compaiono sui giornali locali, qualcosa, poi l'autopsia, l'inchiesta eccetera sparisce dalla cronaca, e va bene, va male anzi, però questa purtroppo è la situazione. Vediamo cosa è successo questa settimana. C'è stato un gran chiacchierare che due giorni a questa parte sui giornali e dura ancora oggi, sulla quella sentenza della Cassazione che ha mandato libero una persona, un uomo di una certa età, che aveva rubato in un supermercato una confezione di wurstel e due pezzetti di formaggio. All'inizio era stato condannato a 6 mesi ovviamente la cosa pure abbastanza squallida, è stato segnalato da un cliente, nemmeno l'hanno trovato le telecamere, un cliente ha segnalato alla sicurezza che questo stava rubando. Qualcosa come la quantità economica, il corrispondente in denaro di ciò che stava mettersi in tasca era 4 euro, quindi grande, però questo dimostra che c'è tanta gente che è peggio peggio dei secondini in divisa, perché evidentemente hanno dei problemi che non riescono a risolvere e quindi fanno gli spioni. Comunque è stato preso, condannato a 6 mesi, però poi lui ovviamente, c'è un avvocato d'ufficio che si è fermato lì, la Procura della Repubblica ha fatto la in Cassazione, perché diceva che in realtà è stato fermato alle casse, quindi non aveva ancora portato via questa roba, quindi doveva essere derubricata a tentato furto, non a furto. La Cassazione ha analizzato tutto e ha detto non c'è il reato, perché un vecchio meccanismo, per cui è un vecchio istituto giuridico, quello dello stato di necessità. Se si fanno delle cose in stato di necessità, piccole cose che non danneggino nelle altre persone e nemmeno la società nel suo complesso, in stato di necessità, quindi per mangiare oppure per altre cose, insomma, no? Quando è comprovato lo stato di necessità non c'è reato, e così ha fatto la Corte di Cassazione. Ha mandato libero la condanna. Appunto il furto era di 4 euro, due pezzetti di formaggio e una confezione di wurstel. Giustamente molti, il dramma non è tanto, perché queste cose una volta succedevano abbastanza tranquillamente, insomma, no? Perché è appunto un vecchio istituto giuridico quello, soprattutto il furto per mangiare non viene mai punito, ci sono vecchie sentenze anche perché è molto antico questo e ce l'hanno più o meno tutti gli ordinamenti giudiziari. Il problema è che i giornali, e questo ci permette di capire che in che voragine di stupidità sta accadendo questa società. Per esempio il Messaggero, no? Il Messaggero di ieri dice rubare per fame non costituisce reato, e ci ha messo il punto interrogativo, un varco pericoloso, perché vabbè, oltre a dire le cose, uno che pure se la paga, quello che ha scritto sto pezzo fa finta di avere dimestichezza con i termini giuridici, con le cose, dice vabbè tutto giusto, però attenzione, la sentenza dice non manca qualche rischio se la soluzione adottata con ragionevole comprensione di una situazione di bisogno diventa principio che apre a letture assiste. Ovviamente è un principio, sì, è sempre stato un principio di tutti gli ordinamenti, non solo moderni, anche di quelli antichi, il fatto che lo stato di necessità rende il reato, se non danneggia altri, non più reato. Comunque, nel contesto di solidarietà, così il Messaggero continua, nel contesto di solidarietà che caratterizza il nostro paese, che non mi pare proprio che ci sia la solidarietà nel nostro paese, comunque lui dice, anche per il generoso impegno di una miriade di organizzazioni religiose e di volontariato in presenza di non poche mense della carità, davvero non ci sono effettive possibilità, conclude con un punto interrogativo, davvero non ci sono effettive possibilità di alimentarsi senza ricorrere al furto? È questo davvero inevitabile? Cosa occorre per caratterizzare lo stato di necessità? Cioè cerca di mettere il dubbio per dire attenzione che questa logica punitiva che hanno alcune persone, come in questo caso il Messaggero, che denota veramente una una deriva oltre che stupida, di scarsa conoscenza, anche veramente abbastanza preoccupante. più che era proprio oscurantista, ecco, il meccanismo è oscurantista. E poi anche oggi altri giornali ne parlano, perché questo ha preoccupato tutto. Una cosa normale, è del tutto normale, c'è sempre stata in tutti gli ordinamenti giuridici fin dall'antichità ad oggi il fatto che lo stato di necessità, se uno compie appunto in genere un furto, piccole cose, in stato di necessità ed è comprovato, questo è comprovato, perché non mangiava da giorni, c'era fame, dormiva per strada all'aria aperta, quindi era un povero in canna, e non basta giustificare il fatto che ci siano istanze pubbliche che danno il piatto di minestra, perché quello non è, cioè la carità c'è sempre stata, ma non va a confliggere con lo stato di necessità, questo che non ha capito il signore che ha scritto l'articolo sul Messaggero, e non apre nessun varco, perché c'è sempre stato, ci sarà sempre, fino a che, a meno che non cadiamo appunto nel baratro della miseria morale, giuridica, eccetera. Quindi questa cosa è abbastanza, insomma, come dire, è uno spaccato, non è tanto il fatto di per sé, perché era abbastanza ovvio, abbiamo detto aveva ricorso il procuratore generale perché voleva far derubricare attentato furto il furto, perché dice non se le è portate, non se le è tenute quelle cose, sono state tolte dalle tasche, perché col tentato furto si riduce di un terzo ulteriormente la condanna, invece di 6 mesi ne avrebbe presi 4, ma la Cassazione invece ha cancellato il reato, perché è chiaro che non può essere reato, è ovvio che ogni società deve permettere che ci sia la valutazione dello stato di necessità per ragionare in termini, perché se appunto uno ruba un pezzo di pane per mangiare non può essere un reato, in quanto il diritto di mangiare, lo diceva pure una volta una canzone di De André, sappiamo che non rubare quando si ha fame, no? Oggi scopriamo non è un delitto il non rubare quando si ha fame, va bene. Allora andiamo avanti rapidamente, c'è il allora la notizia che ci dice Asca News, un'agenzia che tratta prevalentemente qui di cose del Comune di Roma, che il Comune di Roma, in accordo con il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, ha deciso, già da tempo stava lavorando a costruire una casa famiglia per metterci le detenute che hanno i bambini e che stanno a Rebibbia femminile, in un gruppo di celle che sono state ribattezzate asilo nido, ma chiaramente sono celle di un carcere, e una casa famiglia potrebbe essere una situazione un po' meno gravosa per i piccoli e le piccole, per i bambini da 0 a 3 anni che stanno tra l'altro oggi fino a 6 anni dovrebbero stare con la madre in carcere. Questa è la legge italiana, abbastanza squallida, è il problema che la legge è stata fatta una legge per permettere alle madri con bambini piccoli e condannate di poter trascorrere il periodo finché i bambini, i figli sono piccoli, agli arresti domiciliari, però poi ci sono tante opzioni, divieti a quella possibilità di godere di quel beneficio, per cui molte donne non quello, la recidiva per esempio è uno, e non avere un domicilio verificabile, che le guardie dicono, la polizia dice, il territoriale dice non riusciamo a controllarlo, vale per esempio per i campi nomadi e così via, per le case occupate, e allora molte donne con i bambini stanno in carcere. Sono circa 20 anni che si sta cercando di risolvere questo problema. Sta di fatto che lo Stato italiano, il potente Stato italiano che poi fa le guerre, eccetera, ha paura di una cinquantina di bambine e bambini da 0 a 3 anni che tiene in carcere perché non ha il coraggio di metterli fuori. Questa è la realtà. Adesso stanno costruendo questa casa famiglia. protetta, quindi vedremo come sarà il meccanismo. Certo, non è un carcere, però sempre protetta, quindi non so se i bambini avranno la possibilità di muoversi, perché non è tanto il problema, non è solo il problema di stare in un posto chiuso senza vedere, diciamo, vedendo il sole a quadretti. Ma anche quello di non poter essere liberi di andare a spasso nei prati con la madre a giocare con gli altri bambini e l'asilo, queste cose qua. E vabbè, di questo se ne occupa appunto l'associazione Leda Colombini, che è quella che mi sembia di questa associazione a Roma Insieme, che fatto di volontari che portavano i bambini, andavano a prendere la mattina a Re Bibbia questo asilo nido e li portavano all'asilo nido, a spasso, eccetera, cioè in mezzo agli altri bambini dove dovrebbero vivere. Tra l'altro questa casa famiglia infatti verrà titolata Leda Colombini. Tra l'altro nota, l'abbiamo già parlato, però ricordiamo per far capire a che punto è, diciamo, l'amministrazione di questa città, questi attuali, come dire, prefetti, Tronta in particolare, aveva mandato lo sfratto all'associazione A Roma Insieme, che fa questo egregio lavoro, perché dovevano pagare l'affitto come dice il mercato, non come era stato stabilito, perché fanno un'attività encomiabile, ma come dice questa dittatura del mercato è diventata veramente qualcosa di agghiacciante. Allora, ancora è uscito il quadro della situazione delle carceri in Europa. Allora, com'è la situazione? Ci permette questo di inquadrare il meccanismo, che poi lo riportiamo dentro il ragionamento sul lancio di un movimento abolizionista del carcere, perché è il momento importante. Certo, ci vuole pure la parte soggettiva, cioè uomini, donne, attivisti, compagni e compagne che si diano da fare veramente per cominciare ad aggredire il carcere e smantellarlo, e che non si fa col piccone, si fa con un'attività politica in mezzo alla gente. Il piccone alla fine ci mettiamo un quarto d'ora per tirare giù le mura, non è quello il problema è che ci vuole molto di più di un quarto d'ora, ci vogliono decenni per togliere dalla mente della gente il concetto di punizione, di pena, e quindi di sanzione punitiva, quindi di reclusione, di sottrazione della libertà. Dunque, sta diminuendo, è oscillante, cioè c'è stato un calo a partire dagli anni, diciamo alla svolta del primo decennio, no? Dall'11, 12, 13 è cominciato di nuovo a diminuire la presenza di persone in carcere, nelle carceri europee, mentre invece dal 90 fino al 2010 c'era stato un incremento molto forte, molto grosso, quindi 30 anni, 30-40, dagli anni 80 è cominciato, 80-90, nel 2000, dal 2010 questo trend di crescita ha cambiato tendenza, è cominciato a scendere, è venuto anche in Italia. Ricordate, nel 2011 c'erano 68-69 mila detenuti, adesso sono 53-54 mila, quindi la differenza è notevole, e anche un po' nel resto di tutta l'Europa. Questo è importante per capire, intanto dovremo capire, lo vedremo nella seconda parte, perché quell'incremento, perché quel trentennio, quarantennio dagli anni 80 in avanti, perché c'è stato questo incremento notevole della carcerazione, che ha accompagnato un po' tutte le altre misure, privatizzazioni, delocalizzazioni, deindustrializzazioni, chiusure di fabbriche, aumento della pressione, come dire, repressiva nei confronti di quello che chiamano il disordine sociale, ma anche del conflitto, insomma, un sacco di cose. Quella che ha coinciso, diciamo, quel trentennio che ha coinciso con un'offensiva chiamata liberista, in cui così i canoni, le scelte dei governi europei sono stati improntati a questa filosofia economica che si chiama liberismo, che vuol dire appunto privilegiare innanzitutto e soltanto praticamente il profitto del capitale investito, fregandosene, anzi colpendo il salario, il salario indiretto, quindi il welfare, lo stato assistenziale, la scuola, la sanità, tutto quello che è una spesa pubblica, dirottando tutte le risorse economiche, tutte le ricchezze dei paesi verso la valorizzazione dei capitali, cioè per far arricchire quelli che investono i capitali, quindi per spostare masse di ricchezza dalle fasce basse, dalle classi subalterne alle classi alte. E così è stato poi, perché abbiamo detto più volte, i dati dell'OCSE, ma anche di tutti gli organismi, dell'OIL, di tutti gli organismi internazionali fatti da studiosi che vedono gli andamenti della distribuzione del reddito tra classi basse e classi alte, hanno detto che dal 2007, da quando è partita questa cosiddetta crisi, la forbice tra redditi alti e redditi bassi è notevolmente aumentata, ma di molto. In Italia, nei paesi diciamo del sud Europa, Grecia, Italia, Spagna, Portogallo e poi tutti i paesi diciamo dell'est Europa, si è notevolmente allargata in maniera spaventosa, tanto al nord Europa si è sempre allargata, ma un po' di meno diciamo, quindi i ricchi sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, questo per dirla con chiarezza. Questo meccanismo che chiamiamo appunto politiche liberiste aveva con sé anche l'esigenza di aumentare la repressione, quindi più carcere. Perché? Perché doveva appunto dimostrare questa cosa che ti dicono quando le associazioni che fanno cose gregge, appunto l'associazione a Roma Insieme che porta i bambini che stanno in carcere a spasso in mezzo agli altri bambini, quelli che si occupano contro la violenza delle donne, quelli vengono tutti sfrattati da questo modo, perché dicono: voi non pagate l'affitto come vuole il mercato, questo dio mercato, dio diavolo, insomma come volete, questa imbecillità che veramente è una cosa, la prima volta quasi nella storia dell'umanità che i governi o gli amministratori non dividono la tassa, il rail, l'affitto secondo l'attività che fa. Se tu fai il commerciante è giusto che paghi quello che devi pagare, perché poi ci guadagni su quell'attività. Se tu fai un'attività che non guadagni niente, volontaria, per migliorare le condizioni di disagio a cui lo Stato non interviene, quindi fai un po' un lavoro diciamo di supplenza, è chiaro che dovresti pagare molto meno l'affitto, dovrebbe esserti dato gratis e così via. Invece il problema, questo aumento di carceri in questi 30 anni che abbiamo avuto fino al 2011 è stato dettato da voler disciplinare questo è il mondo, questo mondo qua, parliamo dell'Europa, poi ovviamente c'è per ripercussioni anche nel resto del mondo, a far capire a tutti che qui c'è un unico Dio in questo mondo di oggi ed è il mercato. E allora, tornando il tasso di detenuti che viene fatto per 100.000 abitanti, in Italia si sta attestando sull'89-90 detenuti per 100.000 abitanti, che è un tasso abbastanza buono. La media europea è intorno al 100. 120 detenuti, è sceso, era nel 124, è diminuita ancora del 7% per 100.000 detenuti. Uno dei punti più bassi è la Germania, che ha l'81,4 detenuti per 100.000 abitanti, la Francia 100 e così via. L'Inghilterra e il Galles sono un po' più alti, 149 detenuti per 100.000 abitanti. E questo. E poi c'è il dato del sovraffollamento, ancora risulta un po' di più la presenza rispetto ai posti disponibili in carcere. E questo dato però è importante sottolinearlo, perché è calato il numero dei detenuti, però sono ancora in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, perché sono state interrotte o bloccate tutte le iniziative che invece fino a un decennio fa erano in corso, quello di costruire nuove carceri. E questo è importante sottolinearlo. Vi ricordate Berlusconi, per esempio, 10 anni fa disse che l'Italia si deve attestare su 100.000 detenuti, quindi dobbiamo costruire, ha lanciando pure il meccanismo del project financing, che è questo meccanismo per cui le ditte private costruiscono il carcere e poi l'affittano allo Stato, quindi guadagnandoci due volte, e comunque altre cose, no? Quindi aveva fatto un piano per la costruzione di una trentina di nuove carceri, quindi per fare soldi, perché gli amici suoi, tutto il gruppo loro, sono i palazzinari, quelli che appunto sfruttano la povera gente, quindi fanno i soldi sugli ospedali fatti male, sulle carceri, eccetera eccetera. Vabbè, questa è la gente che purtroppo però gli italiani hanno votato, evidentemente grande intelligenza non l'ha dimostrata la popolazione italiana negli ultimi 30-40 anni. Vabbè, e poi questa cosa è stata bloccata, e questo è un altro elemento che ci porta a citare elementi per ragionare su un cambiamento di tendenza. Perché? Perché, come abbiamo detto più volte, il criterio dominante della repressione si sta spostando lentamente, però la tendenza è abbastanza chiara, tracciata e inarrestabile, quella di trasferire il punto centrale della repressione, che è stato e continua a essere il carcere, a misure territoriali, a controlli territoriali, con le tantissime misure alternative, si chiamano così, quelle che non prevedono il carcere ma prevedono arresti domiciliari, detenzioni domiciliari, affidamenti in prova, semilibertà, tutte varie cose per cui appunto tu non vai in carcere, hai sempre sei sempre controllato, non hai la libertà di fare ciò che vuoi, e questo è molto importante per loro, e puoi essere controllato 24 ore su 24, e sei controllato tu e tutta la cerchia di persone che ti ruota intorno. Quindi, spostando il controllo dal singolo che va buttato in galera al territorio, l'ambiente dove tu vivi, permettono di, secondo le loro intenzioni, secondo i teorici che hanno studiato questa da tempo ormai, no? Questa nuova applicazione della repressione, e ormai tutti i paesi se ne stanno appropriando e la stanno mettendo in atto, del fatto appunto di poiché le difficoltà di vita, grazie allo sviluppo capitalistico, no? Aumentano nelle periferie, quindi provocano necessità di fare attività extralegali per campare, delle fasce periferiche urbane in tutta Europa, le banlieue, sappiamo, avete visto ogni tanto esplodono le banlieue, i riot inglesi e così via. Bene, il problema è portare quindi i controlli là dove partono appunto queste attività stragali, sia lì partono anche il conflitto sociale, e quello è, loro hanno interesse di bloccare sul nascere. Le occupazioni di case nascono nelle periferie, le lotte per il territorio nascono nelle periferie, per il lavoro, tutto quanto ovviamente nasce lì, e quindi questo trasferimento, il fatto che questo trasferimento vada avanti lentamente è dovuto a una cosa molto semplice, al fatto che in tutto il mondo, in Italia lo vediamo ogni giorno, nei periodi elettorali il politico che strilla buttiamoli tutti in carcere prende più voti, perché la stupidità dell'elettore, di chi va a votare, purtroppo è condizionata da questo fatto. È stato abituato, è stato ammaestrato a pensare che se c'è più gente in carcere, i suoi beni, che poi spesso non so niente, insomma, no? Una macchina, una bicicletta, un motorino, una casa con quattro stupidaggini, sono più tutelati, cosa che ovviamente non è vera, però dicendo più carcere si prendono i voti, questa è l'idea per cui questo processo è rallentato, ma è chiaramente questo, e questo lo vediamo. Quindi questi sono un po' i numeri europei, sono usciti fuori, che confermano questa tendenza. Però poi tutti i particolari ci interessano fino a un certo punto. Ecco, sono ancora in alcuni paesi, ad esempio l'Ungheria è molto alto, vabbè, appunto più o meno come l'Inghilterra e il Galles, in Grecia pure, in Macedonia abbastanza alti, comunque sono intorno ai 120 detenuti per 100.000 abitanti. Ma queste cose vanno viste non con le fotografie, i dati mai vanno visti fotografati in quel momento, ma vanno visti che c'era prima, e che c'era prima ancora, per individuare, va individuata una tendenza per capire il percorso, se c'è una prospettiva, e individuare quella permette di capire. Questi sono i dati che sono usciti della carcerazione europea, ancora molto alta ovviamente. We're gonna do this one together tonight. Allora, poi prima di passare al, ecco, sono le 15:31, abbiamo giusto spaccato la trasmissione a metà, però vogliamo darmi un'informazione per venerdì prossimo, non questo, non dopodomani, ma venerdì 13 maggio. Però ci sono due appuntamenti importanti, cioè non due appuntamenti, un appuntamento importante con due problemi altrettanto importanti. L'appuntamento è di un sit-in, un presidio sotto il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, quello che nominiamo più tanto spesso è il DAP. Il DAP che cos'è? È la struttura sovrintendente, è il dipartimento del Ministero della Giustizia. Cioè il Ministero della Giustizia c'ha i vari dipartimenti come tutti i ministeri, cioè quel ramo del Ministero della Giustizia che si occupa di carcere. Quindi gli uffici del DAP sono quelli che hanno una specifica competenza e una responsabilità sull'andamento. Scusate, la strada fa i lavori sotto qui, sotto la via, sotto la strada a raggio, ed è un disastro, purtroppo sentirà male. Aspettate che chiudiamo la finestra, proviamo a... Sì, forse un po' meglio. Dicevo c'era il DAP, è quello, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, è quel dipartimento del Ministero della Giustizia che si occupa delle carceri. Qui e c'ha degli uffici speciali, l'ufficio che riguarda i detenuti in misura particolarmente dura, quelli in 41 bis, ci sta l'ufficio che si occupa dell'alimentazione, quello della struttura, diciamo, muraria delle carceri, e vari meccanismi e quindi c'è un presidio per, da una parte, per protestare contro il fatto che quel ragazzo Eneas, un bravissimo ragazzo che è andato in carcere a Pesaro per una stupidaggine, appunto, quindi doveva fare qualche mese di carcere, è morto in carcere. Qui tutti i compagni, gli amici di Eneas hanno chiesto da tempo, ne abbiamo parlato qui tante volte, ricordate, del fatto che venisse fuori in quel carcere un'inchiesta fatta bene per capire se c'erano responsabilità. Gli sono stati somministrati psicofarmaci, è stato mandato all'infermeria psichiatrica, poi insomma, tutto un po' di travaglio abbastanza complesso. Il carcere dice che ha detto che si era suicidato, però appunto tutte le persone a lui vicine ne erano un poco convinte, e quindi poi adesso l'inchiesta ha detto che è un suicidio, quindi non è nessuna responsabilità da parte del carcere, e quindi la protesta serve a dire, ma insomma cercate di almeno di fare qualche inchiesta seria a casa vostra, cioè nel carcere. Il secondo problema, quindi, che prevede il presidio sempre lo stesso giorno, venerdì 13, sempre sotto il DAP, riguarda appunto proprio il 41 bis uguale tortura. Ne abbiamo parlato mille volte, il 41 bis, ne parliamo da tempo che era l'articolo 90, poi 41 bis, cioè tutto il regime di detenzione più duro, più feroce che c'è, ed è questo. Oggi è qua, si chiama 41 bis, si stanno quasi 800-770 persone, tantissime, quindi non è che ci stanno i boss mafiosi, perché se i boss mafiosi fossero quella quantità, beh, insomma, sarebbe meglio andarsene a casa. Non è quello, è proprio un meccanismo violento, brutale, e giustamente viene chiamato 41 bis uguale tortura, perché secondo la tortura, appunto, per come è stata dichiarata da espellere dalle varie nazioni, dall'ONU, per tortura non è soltanto il tipo di sevizia, non è valutata secondo la quantità di dolore che uno infligge a un'altra persona, ovviamente le forze dell'ordine infliggono alla persona in loro custodia, ma quanto alla volontà di estorcere confessioni. Allora, siccome la permanenza in 41 bis in questo regime tremendo, assurdo, rimane finché il detenuto non dice quello che gli inquirenti vogliono sapere, cioè fa il nome di quello, di questo, di quell'altro, rimane in 41 bis. Quando farà i nomi, quindi quando fa la delazione, viene tolto il 41 bis, e questo è chiaramente il meccanismo con cui l'ONU ha denunciato la tortura. Quindi l'appuntamento è il venerdì 13 maggio, il posto è abbastanza, il luogo dove si trova questo DAP si trova, ve lo diciamo subito, in via Silvestri 251. Via Silvestri è una via che si trova all'incrocio tra la circonvallazione Gianicolense e via di Forte Bravetta, più o meno a quell'altezza lì, no? Sapete, dopo Monteverde, dopo tutta la circonvallazione Gianicolense, quando questa cambia nome e incrocia la via di Forte Bravetta, da quelle parti c'è un'altra via che si chiama via Silvestri, lì sta il DAP. Comunque poi mercoledì prossimo daremo elementi più simili. Comunque alcuni danno l'appuntamento alla stazione di Trastevere alle 12:30 per andare davanti al DAP, arrivare davanti al DAP alle 14, oppure sempre alle 14 appuntamento per tutti e due i presidi, che poi si riuniscono, perché ci sono entrambe come dire, critiche e denunce anticarcerarie. Si dà pure l'elenco degli autobus. Allora, il bus H da Termini, fermata a Silvestri Serafini, oppure la metro A, ovviamente scendi a Cornelia, poi il bus 889 e si scende appunto alla fermata Bravetta. Allora, vabbè, poi ne daremo l'indicazione ancora mercoledì prossimo, perché questo è il venerdì successivo alla trasmissione di mercoledì. A proposito di tortura, un'ultima cosa che si inserisce nella campagna elettorale squallida come sempre. Ho letto da qualche parte che una, non faccio nomi, non è mia abitudine, che una forza politica minore ha lanciato una persona conosciuta, un po' conosciuta, e ha detto: battiamoci perché venga immediatamente approvata la legge che si viaggia tra Parlamento, tra Senato e Camera dei Deputati sulla tortura. Vogliamo che venga approvata subito, eccetera. Io chiedo a questi signori e signore di leggere le cose prima di sparare cazzate utili per rimediare una decina di voti in più, perché la legge sulla tortura che appunto adesso viaggia tra Senato e Camera dei Deputati è una legge che non raccoglie per niente le indicazioni dell'ONU, quelle su cui non raccoglie nemmeno come è partita questa cosa qua, come è iniziata la battaglia per la tortura, che appunto riprendeva la declaratoria dell'ONU che diceva il reato della tortura intanto è esclusivo delle forze dell'ordine, perché sono loro che hanno in custodia una persona privata della propria libertà, quindi di aiuto di altri, di possibilità di reagire, eccetera. Se a questa persona che è in loro custodia gli praticano delle pressioni fisiche o anche psichiche per ottenere delle informazioni, in quel punto scatta tortura. Questa è la declaratoria, ci stanno le 10 righe che ho detto, mi ho raccontato mille volte, ho scritto dappertutto, in tutta la rete è piena, quindi tutti sanno tutto, non diciamo che non sanno le cose. Se non le vogliono sapere perché vogliono fare i cretini sperando che gli frutti qualche voto in più. Non è così, quella legge è sbagliata, non va approvata. Poi non solo, diventa un reato non esclusivo delle forze dell'ordine ma comune, come se lo potesse fare chiunque. Non è vero, l'ONU ha detto che era un reato da attribuire specificamente alle forze dell'ordine, perché sono quelle che hanno in pieno possesso una persona che è da sottoporre a tortura. Altra cosa è che questo progetto di legge, che è stato peggiorato ogni passaggio da Camera a Senato, viene peggiorato, deve essere reiterato, cioè una volta sola la tortura va bene, se lo fai più volte può essere, fa scattare il reato. È una cosa allucinante, quindi quello è meglio non farne niente, perché almeno si può poi mettere in piedi una pressione perché venga applicato il reato per come l'aveva proposto l'ONU, il reato di tortura, non questa porcheria all'italiana, che è una cosa, è peggiore che se non ci fosse, quindi non va bene quella cosa. Non vi inventate di dire noi vogliamo che venga approvata subito, non deve essere approvata subito quella porcheria, va riscritta completamente, chiaro questa cosa. She is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone rugged, she is a bone r allora dice, ci dispiace interrompere questa bella canzone, ma il tempo appunto scorre e abbiamo solo questi 20 minuti per riprendere il discorso sull'abolizionismo. Dicevamo, allora, perché è importante che in questa fase, in questo periodo, far partire, mettere in piedi un movimento per l'abolizionismo carcerario? È importante perché appunto abbiamo detto, parlando sempre spesso delle cose che succedono, delle scelte del governo, del Ministero della Giustizia, gli studi internazionali, le applicazioni reali, è chiaramente in atto questo spostamento, quello del controllo individuale personale del vecchio modello liberale appunto del 600, fatto in carcere, a quello sul territorio. Perché questo? Il carcere, l'abbiamo detto molte volte nella storia, il carcere non la possiamo ripetere se non in 30 secondi, nasce insieme allo sviluppo industriale. Carcere e fabbrica sono i due pilastri nuovi su cui viaggia il capitalismo, cioè questa modernità. Infatti nel 600 vengono messe in piedi appunto l'industrializzazione, le fabbriche, in alcuni paesi cominciano, Inghilterra, Paesi Bassi, e poi si espandono in tutto il resto del mondo, e così il carcere, che poi si chiama casa di lavoro, workhouse, non ha importanza. Perché dovevano ammaestrare le persone sottratte all'agricoltura, alla pesca, alla pastorizia, ad andare a lavorare in fabbrica in quelle condizioni assurde, 14 ore al giorno, bla bla, e così via. Non ci andavamo volontariamente, abbiamo detto, scoppiò quel fenomeno grandioso ma anche molto bello del vagabondaggio, che ha colpito, prevalentemente si è sviluppato in Inghilterra, che ha avuto questo, ma in tutto il resto d'Europa. Il vagabondaggio è stato un movimento molto interessante, massacrato a colpi proprio di armi da fuoco, ma sono stati uccisi, mutilati, venivano trascinati coi carretti per i paesi per terrorizzare la gente. Cioè il terrore di Stato ha rotto questo movimento del vagabondaggio, che produceva cose belle. Per esempio il miele l'hanno inventato i vagabondi, la produzione del miele la facevano loro, i frutti di bosco li facevano loro, tutte le cose, diciamo, i funghi, le cose che stanno nei boschi la raccoglievano i vagabondi, che poi andavano in città dove scambiavano fuori dalla città con altre attività, con cose artigianali e così via. Quindi è stato massacrato, ci stanno bei libri su questo, ma questo è un altro discorso, ve l'abbiamo detto più volte. E dunque il carcere nasce per ammaestrare la persona, i proletari, ad andare a lavorare in fabbrica, facendo sapere che loro, i loro figli e i nipoti avranno quel destino, punto e basta. E quindi il carcere permette, fa questa cosa qui. Poi succede che questo disciplinamento, questo ammaestramento è arrivato, funziona. E come hanno ci sono riusciti a raggiungere questa cosa? Pensate che alcuni studiosi, come per esempio Tommaso Moro, un grande studioso, diceva non fate questa cosa assurda di voler cambiare, mutare, quasi una mutazione antropologica. L'essere umano è abituato a stare all'aperto, fare il pastore, il pescatore, il contadino, appunto vive l'agricoltore, perché lo volete rinchiudere le cose? Vedrete che non vi riuscirà, purtroppo è riuscita. Quindi quasi tutti i filosofi del tempo dicevano che non gli sarebbe riuscita alla borghesia questo ammaestramento, invece purtroppo è riuscito. A parte questo, vabbè, leviamo da parte questa cosa, e non è inutile pensare di tornare indietro, non si torna indietro, la ruota della storia non gira mai indietro, come la ruota della vita, quindi non facciamo cavolo. Bisogna capire che come oggi lottare in questa situazione. Allora, alcuni studiosi hanno rapportato le presenze in carcere, che erano ondiva, che a volte esplodevano, come è stato adesso, no? Abbiamo visto nel 2011 l'Europa esplodeva piena di carcere, adesso già sta scendendo, e sono passati solo 5 anni dal 2011, quindi nel 70 era scesa ai minimi livelli la presenza di persone in carcere, sia in Europa che negli Stati Uniti d'America, poi è cresciuta e poi sta riscendendo. Quindi perché? Ma poi nel 600, nell'800, e vedevano che questa oscillazione era legata a un fenomeno più grosso, che era l'andamento del mercato della forza lavoro. Cioè il mercato della forza lavoro, cioè quindi le braccia disponibili ad andare a lavorare in industria, che ci andavano perché non c'era altro modo per per avere un salario e campare, mettere insieme il pranzo con la cena o anche soltanto il pranzo e un tetto sulla testa, ci andavano perché appunto non c'era un altro modo di sostentarsi, di mangiare, di campare, e quindi quando aumentava la richiesta di persone che chiedevano lavoro, è chiaro che i padroni potevano tenere i salari bassi, infatti li calavano spesso quando c'era questa grossa afflusso di forza lavoro che chiedeva lavoro, perché c'era una grossa richiesta, dentro gli operai protestavano perché volevano condizioni migliori, dicevano guarda che fuori dalla porta ce ne sono altrettanti che vengono a lavorare anche a condizioni peggiori di queste, e quindi così abbassavano i salari e peggioravano le condizioni di vita. Quando invece, e quindi in quel momento il carcere apriva le porte perché faceva, buttava appunto le persone sul mercato per far aumentare questa offerta di manodopera, e facendo quindi calare il profitto. Però ci sono stati momenti a seguito di guerre, carestie, ad esempio la peste del 600, della metà del 600, quella di cui parla pure Manzoni, no? Quella lì portò una moria enorme in Europa, pare che morirono un terzo delle persone, più o meno, tantissime, quindi, no? Nella peste, quindi veniva meno la quantità di forza lavoro, c'era scarsità di offerta e la domanda invece chiedeva lavoratori. Allora poi c'era una sorta di specializzazione, non erano tutti intercambiabili lavoratori come è un po' adesso, e allora c'era la ricerca di lavoratori, andando a cercare, quindi i padroni si contendevano la manodopera aumentando il costo. Infatti l'unico periodo, dicono gli storici che hanno studiato l'andamento dei salari operai nel corso degli ultimi secoli, hanno visto che l'unico periodo in cui è aumentato realmente il salario reale, non quello fittizio, no? Proprio il salario reale, cioè la quantità di beni che puoi prendere con quella quantità monetaria di salario, è stato proprio a seguito della peste del 600, perché ha fatto così scendere la presenza di forza lavoro che i padroni dovevano per forza aumentare i salari, altrimenti li prendeva quell'altro padrone, quel poco di forza lavoro disponibile, così dopo le guerre e così via, insomma, questo andamento qui. Hanno visto che il carcere era molto legato all'andamento del costo del lavoro, quando appunto serviva buttare gente dentro per disciplinarla al lavoro, perché appunto c'erano fenomeni di insubordinazione molto vasti che ci sono stati nella storia, rivolte spaventose, e i secoli passati non sono stati i secoli tranquilli dell'Europa. Allora il carcere trova la sua funzione di prendere queste persone, diciamo un po' sovversive o comunque non adatte al lavoro, portarle in carcere, rieducarle, ammaestrarle e poi rimetterle fuori. E ha avuto questa funzione, però c'è avuto questa oscillazione. Lo ha ancora, perché per esempio se noi vediamo nei tempi recenti il punto più basso nel mondo occidentale è stato appunto gli anni 70, a seguito delle lotte operaie, a seguito di una critica anche culturale, il mondo occidentale negli anni 70 in Europa e negli Stati Uniti ha raggiunto il suo apice, il punto più alto di elaborazione, filosofi, intellettuali sono lanciati contro il carcere, contro il manicomio, in Italia è riuscito addirittura a smantellare la parte fisica del manicomio, non anche qui la non si è riuscito a smantellare il controllo psichiatrico, però perlomeno un grosso passo è stato fatto, messo in discussione il carcere, che si è arrivata ai minimi storici. In Italia si è arrivata a 28.000 presenze in carcere, pensate un po', 28.000, nel 2011 erano quasi 70.000, vedete come oscillano e non è che cambiavano i reati sono sempre quelli, anzi più o meno c'è un calo, non dipende dal carcere, dipende anche qui da altre cose, l'abbattimento del welfare per esempio porta all'aumento dei reati contro il patrimonio, perché appunto la gente va a rubare un pacchetto di giuste perché deve mangiare, no? E comunque quindi questo legame qui, allora questa storia è molto semplificata, però non c'è tempo, e questo legame, e abbiamo detto pure all'inizio perché quest'ultimo incremento, quello dagli anni 70 al 2010, un grosso innalzamento negli Stati Uniti, è stato moltiplicato per 5 volte, pensate, la presenza delle persone in carcere, tant'è vero che attualmente il programma della di chi vince, se vince la Clinton, Hillary Clinton, è quello di diminuire appunto le presenze in carcere, anche perché il costo è enorme, quindi c'è anche questo. In Italia sono 3 miliardi costa la detenzione carceraria, negli Stati Uniti 30 miliardi, perché... E allora si vuol calare questa. In più, quindi questo è l'andamento. Oggi non serve più questo disciplinamento, oggi tutti i bambini quando nascono sanno che il loro Dio è il mercato e lo dicono fin dalle scuole elementari, forse aiutati anche dagli insegnanti, peccato, che gli dicono... andrai a lavorare quando, forse alle scuole medie, quando cominci a parlare di lavorare, e beh, me lo chiedono a casa, lo chiedono agli adulti che incontrano. La risposta che hanno: sì, se ci sarà il mercato del lavoro che chiede lavoro, tu troverai lavoro, se no è il mercato del lavoro che deciderà il tuo destino, come fosse appunto un dio, un demone, un dio che è tremendo, no? Vabbè, quindi ci sono riusciti anche stavolta a disciplinare, a maestrare sul sottoporsi al dominio del mercato. Adesso non serve più quel tipo di carcere, può darsi che servirà in futuro per un altro disciplinamento, non lo sappiamo, leggere il futuro non ci appartiene, però vediamo che c'è una tendenza, la tendenza a diminuire la presenza in carcere e spostarla sul territorio. I motivi sono: uno, costa troppo il carcere; secondo, non fa diminuire la criminalità, anzi favorisce l'aumento della criminalità. Il carcere è il luogo di aggregazione per criminali, per bande criminali, questo lo sappiamo da sempre. Adesso però è sui tavoli dei ministri della giustizia, dei governanti, quindi lo sanno tutti. Poco tempo fa hanno scoperto che i famosi terroristi dell'ISIS o di chi c'è non vengono chissà da dove per conquistare chissà dove, ma sono nati sotto casa tua, sono nati spesso per esempio al palazzino a fianco a quella del ministro Forcaiolo, perché stanno lì, sono nati in queste banlieue, in queste periferie dove non c'è niente, dove non hanno ottenuto nemmeno col conflitto organizzato qualcosa. E la risposta, una delle risposte può essere quella, ma l'abbiamo trattato pure questo problema, quindi il carcere non produce cose belle ma solo cose appunto, no, è il problema, non è solo parte della soluzione, è parte del problema rispetto alla criminalità, quindi non serve a niente. I dati poi sulla recidiva sono spaventosi, no? Chi fa il carcere fino alla fine torna a delinquere, eccetera. E poi non permette di controllare l'aggregato extralegale o l'aggregato del conflitto sociale laddove questo sorge, che sono appunto queste aree periferiche delle metropoli, delle città, laddove il malessere è totale, quindi la lotta per la casa, la lotta per il territorio, la lotta per difendere il territorio, la lotta per conquistare il lavoro, per difendersi il lavoro, eccetera, nascono e sorgono lì, e quindi è lì che bisogna apportare il controllo. È un processo lungo e complesso, perché dovranno anche attrezzare della polizia territoriale, che non c'è in Italia con queste specifiche funzioni e con queste capacità, ma si sta organizzando. Avete visto ultimamente, stanno discutendo il DASPO cittadino, che sul modello di quello fatto agli stadi, che stanno già dando, poi utilizzando l'articolo 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza fatto in periodo del 30, in periodo fascista, che significa persone ritenute pericolose secondo dei criteri ovviamente del tutto aleatori, no? Io ritengo che tu sei pericoloso perché ti ho visto a dirigere una manifestazione o dirigere un picchetto o fa scontri con la polizia o per altri motivi, quindi ti metto questi divieti, cioè non puoi andare in quel territorio, devi stare in questo territorio, non puoi frequentare questo, quello, quell'altro, cioè questi sono i meccanismi di controllo, sono più importanti per loro questi che non il carcere. E allora passiamo subito alla tendenza: che cosa fare di fronte a questa tendenza che è inevitabile e vedremo sempre più diminuire le presenze in carcere e sempre più aumentare le presenze di, sono sempre però controlli, cioè quello che noi, ecco, va detto questa cosa, è chiaro che per il detenuto che esce dal carcere va in misura alternativa, fa un respiro di sollievo perché è meno peggio, però rimane tutto il malessere del carcere, rimane lo stigma, tu sei un delinquente, vieni marchiato sulla fronte, come delinquente, se anche sta agli arresti domiciliari, detenzione domiciliare, insomma, quindi rimane il marchio, lo stigma rimane, quello è quello che va tolto. Rimane la privazione di libertà, non è la libertà totale come quando sta in carcere, ma è la libertà di frequentare questo, quello, quell'altro, di andare in questo posto, di risiedere in quest'altro posto, di muoverti secondo queste cose, di avere libertà in questi orari e non in quest'altri, cioè è sempre una sottrazione di libertà. Quindi i criteri non cambiano, spostano fisicamente e socialmente, perché carcere è una cosa isolata che ormai sta sempre più in periferia, isolata dal resto della città. Il territorio è il cuore della città, la periferia è il cuore pulsante della città, è lì che la città vive, e al centro ci stanno i monumenti e i turisti, e qualche borghesone stupido, ma nella periferia c'è tutto, lì ferve le tensioni che poi modificheranno gli assetti urbani, perché sono in modificazione anche quelli. Noi dovremmo dargli un indirizzo verso quello che pensiamo debba essere la città, la società, ecco, però che si modifica è inevitabile. Allora, stante queste cose, dobbiamo mettere in piedi delle attività urgenti. Quali sono? È semplice la risposta, difficile a farsi, ma è semplice, nel senso, dobbiamo costruire degli aggregati territoriali in maniera molto urgente, più urgente di quanto stiamo facendo, perché è lì che dobbiamo supportare gli arrestati, non solo sotto il carcere, ma nel territorio, perché ne vedremo sempre più in territorio, e dovremo organizzarli, cioè non si dà movimento di abolizione del carcere se non si organizzano coloro che sono incarcerati o in carcere o sul territorio, comunque sempre le persone private della libertà. È come non si abbatte lo sfruttamento in fabbrica se non si organizzano gli operai. Questo è vero da sempre, da quando è nata la fabbrica. Cioè, le cose si liberano coloro, non che li liberi qualcuno, si liberano da loro stessi. Quindi la prima attività da fare è organizzare territorialmente le persone che hanno dei problemi, che hanno questione di libertà, cioè che sono colpite dalla repressione, creando intorno a loro una grossa solidarietà, ma di grande livello, di grande tensione e grande passione. Questo è il primo punto, e chiaramente su questo è possibile poi che nascano gli aggregati dei detenuti in carcere, non il contrario. In carcere i detenuti non si aggregano tra di loro se non vedono che fuori avviene qualcosa che va nel senso della loro lotta. Non pensate che la lotta parte dal carcere, non è possibile, almeno qui in Italia è sempre il contrario, è dall'esterno che si dà man forte al carcere.